Ho scoperto che ci sono due modi per cercare casa. Il primo è leggere gli annunci, comparare i prezzi e controllare su una mappa dove si trova l'appartamento. Il secondo invece è più romantico. Consiste nell'uscire per strada e passeggiare nelle zone della città che ci piacciono di più. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. 16:08 minuti, questa era Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. È arrivato, credo, il momento a 3 settimane dall'inizio di questo programma che io chiarisca un paio di cose. Le devo chiarire innanzitutto con chi ascolta da parecchio tempo e interviene anche, no? C'è un profilo Facebook in cui io scrivo delle cose e le persone che hanno voglia ce lo vanno a leggerle e magari anche a scrivere delle cose loro. Però lo chiarisco in generale anche con chi semplicemente ascolta e non interviene. Ieri io ho raccontato di un periodo di... che ho definito crisi, che sto passando, e quindi come faccio praticamente dal 6 di settembre e un po' anche come ho fatto l'anno scorso, lo racconto. È molto semplice, io faccio questa cosa qui, cioè mi capitano delle cose, le vedo, vivo delle cose e le racconto qui, punto. Non faccio nient'altro. È una cosa che può piacere oppure no. A molti non piace, infatti molti me lo scrivono e mi fanno sapere che cambiano canale. Ad altri invece sì, per dei motivi che non so e che posso intuire. Però di fatto questa è la cosa che faccio. Non leggo le notiziole dai giornali e le racconto in radio. Non mando la musica, non parlo di cronaca, non parlo di politica, non parlo di sport. Mi succedono delle cose, sono una persona molto normale e le racconto, ok? Quindi fa parte del gioco il fatto che se c'è una giornata no, io ve la racconti. Perché altrimenti non funziona così. Funziona in un altro modo. Quindi ieri mi sono molto stupito, ammetto, quando ho trovato sul profilo del programma dei messaggi che mi spronavano: ma dai, no? Vogliamo un po' più di divertimento. Ecco, per quello ci sono dei programmi che si chiamano Zelig, ad esempio, se avete voglia di ridere. Oppure c'è la gente che racconta le barzellette. Altrimenti, se avete voglia di sentire quello che succede a me, che è più o meno di solito quello che succede alle persone normali, state qua. Ripeto, uno può benissimo cambiare canale, ci sono un sacco di altre cose da fare. Per esempio, Marta io la conosco perché è stata anche qui, quindi mi sento di poterglielo dire. Perché mi scrive: basta storie pessimiste, qui ci vuole una dose massiccia di positività. Matteo, io vorrei ridere e sorridere. Marta, mi fa piacere che tu abbia voglia di ridere e sorridere. Per cui i consigli sono sempre quelli. Guarda, ci sono addirittura dei siti di barzellette, se ti va. Sì, ma Matteo, se uno è un po' in crisi e ti sente oggi, chiaramente ieri, ti sente parlare oggi, gli vengono brutti pensieri. Azz, almeno tu tienici alto il morale. Vale esattamente la stessa cosa che ho detto per Marta prima. Poi c'è un altro messaggio che mi dice: siamo entrambi in crisi, credo, perché lui mi accenna che è in crisi anche lui. Io ho una poltrona dove poggiare il sedere e tu hai la poltrona di Radio 24. Guarda, è una sedia più che una poltrona. Fai un bel lavoro che ti consente di trasmettere valori positivi. Io non voglio trasmettere valori positivi. Cioè proprio non è il mio compito. C'è la scuola per quello, oppure c'è la letteratura, quella molto alta, o c'è la chiesa per trasmettere valori positivi. Io non ho assolutamente intenzione di farlo. Vi racconto delle piccole cose che mi succedono. Se vi va le ascoltate, altrimenti no. Chiudo con l'ultimo e poi ho finito. Non è uno sfogo, è semplicemente che ho deciso di dire le cose come stanno e quindi ve le dico in diretta decisamente e completamente. Matteo, non è credibile che uno che sta su Wikipedia, lavora a Radio 24, è intelligente, ha i soldi, attenzione, ha i soldi, ed è un bell'uomo, è per questo ti ringrazio, possa avere questo genere di crisi, giusto? Perché effettivamente solo gli straccioni che non hanno un posto di lavoro e che non sanno cosa fare della loro vita possono vivere momenti di crisi. Questo è quanto. Io sono qui, questa è Radio 24, sono le 16:12 minuti e 30 secondi. Ci sono due numeri per intervenire, perché oggi vi racconto un'altra cosa. Vi racconto che sto cercando casa, perché ieri, come vi dicevo, il momento in cui ho capito che era arrivato l'ora di uscire da questa crisi era che volevo cercarmi casa. A questo punto, visto che ho bisogno di una mano, visto che ho bisogno di capire come districarmi nel mercato immobiliare che è un delirio, se avete voglia di raccontarmelo e magari di darmi una mano, perché magari la state cercando anche voi la casa, 800240024 oppure 349-238-6666. Ma la ciccia rimane sempre quella. Se avete voglia, bene, altrimenti amici come prima. Quello degli annunci sembra veramente un mondo parallelo. Da quando qualche giorno fa ho deciso che è arrivato il momento di cercarmi casa, mi sembra di essere entrato in un racconto di fantascienza. Le regole del mercato immobiliare non sono quelle del vivere comune. Sono state stravolte e poi riscritte ad uso e consumo di non so chi, ma sicuramente di qualcuno che alla fine di tutto questo deve per forza guadagnarci. Allora, poche cose ho scoperto, però la prima regola è che in una città come Milano, se cerchi casa e hai un budget di spesa che non puoi sforare, quando vedi una bella casa, che è perfetta, come posizione, come metratura, come luminosità, ecco, significa già che quella casa lì non te la puoi permettere. Se cerchi casa e hai un tetto massimo da spendere, la casa che prenderai sarà sempre un compromesso. Solo chi può permettersi di non sapere il prezzo al metro quadro può scegliere senza preoccuparsi del denaro. Questa però è una delle ingiustizie del mondo e la si prende per quello che è. La seconda regola invece è mai fidarsi totalmente degli agenti immobiliari. Non di tutti, E non per tutto comunque. Cioè, non sto dicendo che siano cattive persone. È che il loro mestiere è quello di vendere cose che non appartengono a loro. Cioè, non è come quando compri una macchina usata dal proprietario, che sai già che sarà di parte, perché te sta vendendo una cosa che gli appartiene, quindi ha un po' di storia e in più vuole cercare di farci qualche soldo con quell'auto. No, gli agenti immobiliari sembrano galleggiare in quello spazio di nessuno che è l'intermediazione, per cui ti mostrano una casa che non è la loro, te ne elencano tutti i pregi, se sono scafati anche qualche piccolo difetto, però hanno sempre quel tono distaccato, no? Di chi ti sembra sottintendere, guardi, tanto comunque non è roba mia. La terza regola del mondo immobiliare è che se un annuncio contiene parole tipo soluzione particolare, appartamento stravagante, oppure per intenditori, ecco, quella è una fregatura. Per le cose belle bastano due parole, e poi il prezzo, ovviamente. Insomma, in questo mondo parallelo, oltre alle regole, bisogna imparare una lingua, fatta di parole nuove, spesso incomprensibili. E non so come, ma mi sono fatto l'idea che il mondo immobiliare sia un bel luogo, una sorta di palestra da frequentare per farsi le ossa e scoprire poi quanto è dura là fuori, nel mondo reale. Perché la sensazione, magari mi sbaglio, è che tutti gli annunci nascondano qualcosa di losco e che siano scritti per un'unica ragione. Fotterti. Ad esempio, Maggiolina, in palazzina tipo, villetta, appartamento arredato ed interamente in ordine, tinello. Era dall'82 che non sentivo la parola tinello. Angolo cottura, tre camere, bagno, 900 euro più 165 di spese. Grazie. Poi... Viale Corsica, graziosa mansarda, aia graziosa. Arredata, climatizzata, complesso signorile con parco condominiale e campo da tennis. Ingresso, ampio salone, letto, cucina, bagno, solo referenziati. Ma che vuol dire solo referenziati? Cioè chi è che mi dà le referenze? 630 euro più spese, grazie. Zona Bocconi, affitta, si traversa via Volvinio, monolocale nuovo, completamente ristrutturato ed arredato. Bagno con finestra, porta blindata, solo ragazzi. Solo ragazzi. 35 anni già, niente più ragazzi. Adiacente metropolitana, affitto, appartamento radicalmente ristrutturato, modernamente arredato, cucina nuova con la lavastoviglie, camera, ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno con la lavatrice, anticamera, tutti i due balconi, e ragazzi, camera, spazio, questo tutto ha messo. Secondo piano, ascensore, 900 mensili trattabili. Perfetto per una coppia. Qui solo ragazzi, coppie. Uno da solo piuttosto crepa. Girare per le strade invece ha tutto un altro sapore. Ho scoperto che ci sono due modi per cercare casa. Il primo è leggere gli annunci, comparare i prezzi e controllare su una mappa dove si trova l'appartamento. Il secondo invece è più romantico, consiste nell'uscire per strada e passeggiare nelle zone della città che ci piacciono di più. Osservare i palazzi, controllare che sul portone ci sia scritto il cartello vendesi o affittasi. Ecco, un attimo, scusate, prima di proseguire... Io vorrei soffermarmi giusto 30 secondi su un aspetto deprecabile che riguarda l'analfabetismo di chi scrive i cartelli degli appartamenti in vendita. Perché se è un solo appartamento che si vende, allora la dicitura corretta è vendesi, giusto? Si vende. Se invece sono più appartamenti ad essere venduti, la parola da usare è vendonsi, che sta per si vendono, giusto? Perché è plurale. Ok, scusate, ma mi dà fastidio e proprio non riesco a tenerlo per me. Comunque, sabato pomeriggio sono uscito da casa dell'amica che mi ospita, da Simona, e mi sono messo a passeggiare per Milano. La giornata sabato era cristallina, di quella limpidezza malinconica che solo i pomeriggi d'autunno riescono ad avere. La città era piena di gente. Tutti quanti sembravano voler sfruttare gli ultimi giorni di sole prima di chiudersi nei cappotti per tutto l'inverno. Milano era bella sabato pomeriggio. Ho passeggiato lungo la Darsena fino a Porta Romana, passando attraverso la zona ticinese. Ho cercato di girare per le strade camminando sempre sulla parte assolata del marciapiede. Non so com'è, però ultimamente c'è spesso il vento qui a Milano. Anche sabato era così. E quando l'aria si muove sembra che tutto possa accadere. Sembra che possa accadere anche di trovare la casa che fa per te in una fotografia dietro alla vetrina di un'agenzia immobiliare. All'altezza del Naviglio Pavese mi sono trovato davanti ad una vetrina che conteneva foto di case, in vendita e in affitto. Tra le proposte non sembrava esserci niente di interessante, però dentro al negozio, seduta davanti ad un computer portatile, c'era una donna di circa 40 anni, con i capelli biondi e gli occhi grandi, che stava guardando giusto verso la vetrina. E quando i nostri sguardi si sono incrociati, lei mi ha sorriso. Ecco, in quel momento lì io mi sono ricordato che era passato un bel po' di tempo da quando non avevo avuto voglia di corteggiare una donna. Ho aperto la porta e sono entrato. Lei mi ha salutato e mi ha chiesto se poteva essermi utile. Io l'ho guardata e le ho risposto. Spero proprio di sì. You got to go blank to let it appear. The garden on high grows bigger each year. Without the black stone you can't break the string. The omniverse sings of all of these things. Angelica, Angelica, Angelica. Ecco qua, cavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac, tovaglia metro, tac, tac, tac, tac, piatto fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac. Oh, questa sì che vita. Top. Trovare casa è un delirio, cioè è proprio un campo minato, non si riesce a capire esattamente quali siano le regole. Ecco, io vorrei capire quali sono le regole per trovare una casa decente, per non farsi fregare, perché davvero non capisci mai cosa si nasconde dietro a un annuncio immobiliare. Il problema è che quando la vai a vedere vedi delle robe talmente improponibili che poi quando ne vedi una decente sembra la fine del mondo. Credo che una delle regole sia infatti non innamorarsi, cioè non innamorarsi delle case, lasciarle passarle, farle sedimentare e poi magari a un certo punto ritornano fuori, no? Ma quella casa effettivamente non era così male, poi l'è andata via, amen, ne arriverà un'altra. Ecco, facciamo così, se c'è qualcuno che magari adesso è in auto oppure è tornato da poco e ha visto una casa oggi, la sta cercando, quindi, e l'ha vista oggi, magari è la ventesima o la trentesima che vede, 800 24 0024, ma anche 349 238 6666, proprio un piccolo prontuario di regole. Gianni mi scrive: quando vado in banca per chiedere un mutuo per la prima casa, il solo modo per ottenere credibilità è indossare il passamontagna. Io ho trovato un piccolo prontuario per trovare casa, proprio è il solito amico, si chiama Google, vai lì e scrivi regole per trovare una casa, lo trovate anche voi. Qua dice: per trovare la casa perfetta diventa un compito a casa, diventa quasi un lavoro. La prima cosa da fare, qua dice, è scegliere la zona. Assodato che le città sono diventate ormai invivibili, sia sul piano monetario che sulla qualità della vita, conviene puntare alle periferie, alle zone limitrofe al luogo di lavoro o comunque restare alle porte della città, magari in mezzo al verde, sì. Fate attenzione alla vicinanza dei mezzi di trasporto, la distanza di supermercati, centri commerciali, negozi di prima necessità, e fino a qui. Scegliere il tipo di casa, attenzione. Verificate l'esposizione della casa rispetto al sole. Ok, io la verifico pure, ma dove deve essere esposta rispetto al sole? A sud, forse. Paolino ne sa Paolo, tu non hai comprato casa? Ah, voglia, magari. Ma anche solo affittata, credo a sud, giusto? Non lo so, 800 24 00 24. Considerate lo stato degli impianti idraulici, riscaldamento, elettrici, eventuali attacchi per l'antenna TV, gli infissi, i pavimenti, i sanitari. Mi devo portare un perito, praticamente. 800 24 00 24. 349 238 6666. Subito c'è Elisabetta, che ha fatto una scelta radicale. Pronta, Elisabetta? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Brava. Tutto a posto. Senti, raccontami che cosa hai fatto. Tu l'hai cercata ma non l'hai trovata. Sì, noi abbiamo fatto anche noi una roba scientifica, tavolino, cioè? Cerca la zona, eccetera, eccetera, partendo da Milano e poi andando verso l'esterno, per cui prima la periferia di Milano, che secondo me è peggio della città, per cui a quel punto uno è meglio che rimanga in città, e poi invece ci siamo lasciati andare e siamo andati verso la campagna. Ma scusami, verso la campagna. È peggio della città in che senso, Elisabetta? Perché la periferia alla fine, secondo me, non sei in città e non sei in campagna. Ah, ok, per non cui... come prezzi però. No, anzi, secondo me anche la prima cerchia esterna di attorno a Milano, comunque i prezzi sono a livello di Milano, per cui a quel punto. Senti, invece, sta a Milano. E invece voi avete preso poi in campagna? Sì, perché poi noi abbiamo deciso di mettere su famiglia, i bimbi, dove li facciamo crescere, in mezzo alla strada, sulle solite. Beh, in mezzo alla strada, Elisabetta, quando... mi sembra un po' eccessivo. Io sono cresciuta in mezzo alla strada. Non so perché poi ai figli... si pensa sempre di fare qualcosa. Infatti, chissà perché tutti dicono: ma guarda, io sono cresciuto in mezzo alla strada, però i miei figli non voglio farli crescere in mezzo alla strada. È così. Senti, quindi tu alla fine il compromesso che hai trovato è stato a comprare il terreno, o sbaglio? Sì, allora ci siamo spostati sempre di più finché ci siamo trovati in aperta campagna. C'erano questi lotti di terreno in vendita ed è stata un'apocalisse, nel senso, ci siamo innamorati. Ma sono stati 2 anni di ragionamenti, di geometri, di architetti, di esposizioni a nord, esposizioni a sud. Ma ad esempio la casa deve essere esposta a sud o a nord? Allora, le camere a nord, la zona giorno a sud-est, perché prende più calore, invece la camera rimane nella zona fresca. È stato peggio avere a che fare col geometra o con l'architetto? Allora, vabbè, il geometra alla fine si occupa delle pratiche, per cui tutto sommato ti toglie un peso. L'architetto invece è molto più creativo. Si occupa delle pratiche adesso, perché fino a qualche tempo fa i geometri hanno costruito alla grande. Dobbiamo a loro quegli splendidi paesaggi che sono fuori dalle città. Elisabetta, grazie mille. Buona giornata. Sì, figurati. Ciao. 800 24 00 24. Io sono sempre qui per capire che come comportarmi per cercare una casa decente, e torno qui dopo la borsa. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Sandro Pasetti, 34 anni, nell'ufficio della mia ragazza, Ferrara. Io sono qui. La foto è quella di una finestra. È una finestra aperta completamente. Si vede, ha delle tapparelle, perché sono tirate completamente su e ha quei due pirulini che servono a evitare che la tapparella si infili all'interno del cassone. Quello che si vede dalla finestra è meraviglioso. C'è una torre, sono delle mura medievali, direi. Non sono torrite, non è un castello, però potrebbe essere il municipio, potrebbe essere una... non lo so, un luogo dove si tengono delle mostre. Poi abbiamo capito che è Ferrara, quindi è chiaramente uno di quei posti da andare a visitare come turisti. E questo è quello che si vede dalla finestra. Quindi abbiamo capito che è la finestra di un ufficio. Oltre alla torre che c'è sulla destra con... ah no, c'è un campanile in cima. Forse è una chiesa allora. Cioè, se c'è un campanile è per forza una chiesa, ma non sono sicuro se è un campanile. Potrebbe essere la torre di un orologio. C'è la torre di un orologio a Ferrara. Insomma, sulla destra c'è questa torre, c'è questa grande muraglia rossa con delle tende alle finestre, e sopra, proprio in mezzo al cielo, c'è una mongolfiera. E c'è quindi questo distacco tra la parte antica della foto, quella delle mura della città, e questa mongolfiera, che invece è chiaramente una mongolfiera che serve per sponsorizzare una... credo sia una finanziaria. Quindi, diciamo, la cosa più poetica dell'architettura con la cosa più prosaica che è la pubblicità, e in questo caso una finanziaria. Ci sono delle persone di questa mongolfiera, ovviamente, però non capisco se è collegata a terra oppure no. È una bella foto e direi che è fortunata anche la persona che sta in questo ufficio e vede questa vista. 16.35, questa è Radio 24, quello che avete appena sentito è la descrizione di una delle foto che sono arrivate per E voi dove siete, che è semplicemente un gioco per capire dove siete voi rispetto a me che sono qui, sempre nello stesso posto, in via Monterosa 91, nello studio di Radio 24 della diretta al primo piano, quello con i cristalli, a parte che tutto è il cristallo qui, quindi non ci sbagliamo. Dove siete voi? Mi piace l'idea di creare una mappa delle persone che ascoltano questo programma e di vederla anche, di vedere quello che vedono fuori dalla finestra, ad esempio in questo caso, oppure semplicemente quello che rappresenta più il luogo in cui, dove vi trovate. Per farlo è molto semplice, scattate una foto giusto, alcuni non hanno il profilo Facebook, me l'hanno fatto notare, e mi hanno fatto notare anche che forse Vittoria, e te lo dico in diretta perché prima mi sono dimenticato, forse la mail non funziona, qualcuno mi ha scritto che c'è qualche problema, però noi adesso la facciamo sistemare, e la mail, se volete mandare lì la foto con la descrizione del posto, poi Vittoria vi chiamerà e voi quindi con la vostra viva voce la spicchererete al telefono. Potete mandarle anche a iosonoqui@radio24.it oppure sul profilo Facebook, ce l'avete, mi chiedete l'amicizia, è molto semplice, io la do praticamente a tutti, lo dico, quindi è inutile anche che mi ringraziate, grazie per l'amicizia, mi fa piacere che mi ringraziate, ma io la do a tutti proprio incondizionatamente, perché è un programma e quindi vi do l'amicizia. Matteo Caccia, io sono qui, questo è il profilo Facebook 800240024, perché io continuo a cercare casa mia, è una casa in affitto, e però arrivano, io apprezzo le persone che sono precise, e quindi ad esempio Monica mi scrive: Matteo, se mi permetti, guarda queste cose, che siano corrette, il riscaldamento meglio autonomo, così ti gestisci tu, il portinaio è un costo, se ne puoi fare a meno evita, lo spessore dei muri che ti dà isolamento acustico e termico, altrimenti occhio all'età dei vicini di casa, se compri, non è il mio caso, informati se ci sono lavori grossi da fare già in preventivo, facciate, tetti, eccetera. Buona giornata, Monica da Milano. E poi invece Cristian mi dice: ho comprato una porzione di un mulino nel Chianti. Questa sembra lo spot di un film americano, presente, per i turisti americani, per le truffe di turisti americani, quella venite nel Chianti. Ho comprato una porzione di un mulino nel Chianti bellissimo, ma sono 4 mesi che siamo all'ombra, non prende il cellulare neanche la TV, però è il paradiso. Beato te, Cristian. Lasciare decantare, ah giusto, perché prima dicevo che forse se vedi una casa che ti piace è il caso di lasciare decantare prima, no? Non innamorarti. E mi scrivono: lasciare decantare? Come no? Per questo che gli agenti non mancano di dire: guardi, deve decidere in fretta perché sono già in parola con un cliente. Appunto, importante è non fare il loro gioco. Io sto dando casa in affitto. Prima regola, dimostrare di avere un lavoro a tempo indeterminato. Caro Francesco, mi sa che se questa fosse la regola, io credo che ci sarebbero un sacco di case sfitte. 800240024, altri consigli da Alfonso, da Pescara. Pronto? Ciao Alfonso. Io sono a Pescara, abito a Pescara, mi devo spostare su Bologna. Sì. Sto cercando casa, ho moglie e 2 bimbi. Per fare cosa, sì, Alfonso? Ah, per lavoro. Che lavoro fai? Io lavoro nel centro nord Italia, quindi mi muovo, diciamo, dalla Puglia all'Emilia Romagna. Ma sei un agente, sei un agente di commercio o ti muovi, sì, o il tuo lavoro è muoverti? No, venditore, dai. Fai il venditore. Non vuoi dire cosa fai? Ti vergogni, Alfonso? Sì. Come, no, ti vergogni? Però... cosa fai, Alfonso? Guarda, non metto giù fino a che non mi dici cosa fai. No. Come no? Lavoro, è illegale? È legalissimo, un lavoro legale, sono assunto a tempo indeterminato. Ma cosa fai, Alfonso? Voglio sapere cosa fai. Lavoro nel campo dell'automazione industriale. Oh, perfetto, sei talmente vago che automazione, informatico, sei un sistemista? Elettronico, perfetto. Allora, torniamo a noi. Alfonso, stai cercando casa a Bologna? Sì. E non la trovi? Mia moglie ha trovato lavoro a Bologna. Ah, ok. Era disoccupata a Pescara, quindi abbiamo deciso, vabbè, ci spostiamo con i bimbi, proviamo. Certo. E come va? Malissimo, guarda. Ma perché? Perché noi abbiamo bisogno di un appartamento, diciamo, arredato in maniera decente. I bimbi sono piccoli, sì, c'è bisogno di qualche comfort in più. Nelle agenzie immobiliari ti dicono che l'appartamento è perfettamente arredato, con tutti i comfort. Poi lo vai a vedere, ci sono i mobili degli anni 60, 70. È sempre quello della nonna, guarda, io credo che veramente gli appartamenti della nonna siano quelli più, perché i parenti, quando è morta la nonna, non hanno voglia di liberarlo, quindi così, pacchetto completo, tu ti trovi i tavoli in formica. Alfonso, grazie mille, per cui mi segno no appartamenti arredati. Ciao, grazie. Sì, un suggerimento. Vai. Stai abbiamo iniziato a chiedere della lavastoviglie, chiediamo se c'è la lavastoviglie, è un parametro per capire insomma l'arredamento. Ah, che ok, questa è buona. Grazie Alfonso. Ciao in bocca al lupo. Ciao. No, l'appartamento è bello, anche ben distribuito. Forse volendo puntualizzare è un po' troppo impegnativo. Sì, forse sì. Andiamo a Milano da Antonio. Pronto Antonio? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Grande 24. Grande, sempre Radio 24 Forever, l'unica radio rock parlata in Italia. Dimmi. È grandissima. Grande, grande. Antonio, vogliamo andare avanti a dire che è grande Radio 24 oppure possiamo andare a bomba? Lo merita. Okay. Io vorrei soltanto dire che da più mesi sto cercando una casa nel paese, sì, che non è difficile, c'è solo disponibilità. Però bisogna fare attenzione che le agenzie, ciò che propongono molte volte, tendono solo unicamente a portare a casa il loro, come si dice, percentuale. Allora, certo. Senza badare, senza stare a vedere da tutte le relative documentazioni. Qui? Per esempio, a me è stato propinato una casa che era di un soggetto giuridico in fallimento. Ah, ok. Poi, una seconda occasione, è successo che la casa, il prima stava accettando il, come si dice, la proposta d'acquisto, e stavo prendendo la proposta d'acquisto, ma il titolare è andato a cambiare la serratura all'immobile. Perfetto, quindi non sei potuto entrare. E il terzo invece è molto più grave, perché purtroppo ho dato la proposta d'acquisto dei soldi, sì, a una casa che purtroppo poi è risultata rubata, sequestrata dall'autorità. Antonio, guarda, quindi farò io voglio dire solo questo. Che cosa? Voi, nessuno deve dare importo significativo per le proposte d'acquisto, perché si rischiano di perdere i soldi. Va bene Antonio, guarda, io mi segno questo, ma soprattutto viva Radio 24 Antonio. Ciao. Ciao, grazie. Andiamo a Pisa da Federico. Pronto? Sì, ciao Matteo. Ciao Federico, dimmi al volo. Io sono praticamente fra 20 minuti vado a vedere la casa. Dove? A Pisa. Il mio cugino, praticamente la sua mamma, la mia zia, diciamo, c'ha una casa in affitto. Sì. È la seconda volta che ci presentiamo lì per poter entrare. Praticamente chi ci vive adesso non si fa vedere. Lo proviamo a chiamare il telefono e non ci risponde. Non possiamo entrare con le chiavi perché ci è vietato, anche se la zia è la proprietaria di casa. Ma quindi io oggi provo per la seconda volta a vedere la casa. Ma quindi è vera la storia che, come dicono i miei genitori, ma affittare una casa, poi se quello che è dentro non se ne va è un casino, è vero? Appunto, appunto questo è il nostro problema. Cioè, il nostro problema è che se succede qualcosa lì dentro, alla fine la responsabilità è anche della mia zia, non è solo... Lo immagino. Sfonda la porta, Federico, eventualmente sfondi la porta. Grazie mille. Vai. Ciao, buona giornata. Ciao. Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E andiamo da Paolo a Milano. Paolo costruisce le case. Pronto Paolo? Ciao Paolo. Ciao Matteo, Giorgio. Sei Giorgio? Sì, no, Paolo. Hai detto pronto? Quattro nomi insieme in un'unica volta. Hai detto ciao Paolo, Matteo, Giorgio. Ero con l'altro telefono, scusami. Come Matteo, No, ne ho due soli, basta. Senti Matteo, io le costruisco le case. Aia. No, sono architetto. Le costruisco proprio, non le progetto, le costruisco. Cioè, sei un palazzinaro? No, non sei un palazzinaro. Ma è vero che i palazzinari sono quelli che possono fare più nero di tutti, Paolo? Più nero di tutti non lo so. Però ne fanno parecchio di nero. No. Ma non più come ma una tipo volta, una ma io non sono beati quei tempi in cui no, si faceva quel dire... nero no, non c'è più il nero cantiere, di cantiere per cui li fanno quelli sopra di me. Tu cosa sei, scusa Paolo? Direttore di cantiere. Ok, quindi dimmi che cosa guardare quando costruisci. Ma no, ascolta, io ne ho cambiate 5 di case. Sì. Ok. Sì. E le ho sempre trovate guardando con naso all'insù e lasciandomi ispirare dal quarto in giro, diciamo, quella okay, potrebbe essere una bella casa. È chiaro, capito. Perché trovi il cartello vende, si affitta, sì, quello che c'è, e te la scegli così. Va bene, ok. E se te ne serve una, ne ho una molto bella. Guarda, magari ne parliamo dopo, perché effettivamente la sto cercando. Paolo, comunque, basta col nero e ascoltiamo il cuore. Grazie mille. Ciao. Sono le 16.44, sono già in ritardo. Io ringrazio tutti quanti, sono di là dal vetro. Oggi ho spulciato 5 giornali, 4 siti d'annunci. Ho calcolato le spese per il riscaldamento e la luce. Ho parlato al telefono con mia sorella e con un amico che non sentivo da una vita. Ho realizzato che il gioco della verità, soprattutto, non è solo un gioco per bambini. Domani non lo so, ma io oggi sono qui. E voi, dove siete?